con Fabrizio Borni, regista del mediometraggio Quelli del Dopo, che sarà presentato a Roma, a Cinecittà Studios, Sala Fellini, giovedì 20 febbraio 2020. Fabrizio, ben trovato. Ben trovato a voi. Ci racconti di questo progetto? È un progetto che nasce un po' di tempo fa. Io ho avuto sempre, lavorando nel cinema, venendo da una famiglia di cinema, ho avuto sempre questa ambizione di raccontare una storia. È molto difficile provare con i lungometraggi qui in Italia e quindi abbiamo provato con questo mediometraggio che è un racconto onirico in realtà che prende spunto da uno di quei tanti brutti fatti di cronaca che riguardano la violenza sulle donne. Da cosa hai preso spunto? Se hai preso spunto dalla cronaca, com'è stato il lavoro di scrittura? Ho preso spunto dalla cronaca, ma non come giornalista o come curioso, come investigatore, tra virgolette, ma come padre, perché ho seguito una vicenda che mi ha molto rattristato. Negli ultimi anni ci sono stati questi fatti di cronaca molto terribili, no? Di queste giovani ragazze uccise in modo così assurdo, però ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare, che è la storia di questa giovane ragazza di Arce, in provincia di Frosinone, Serena Mollicone, che è stata uccisa e a distanza di quasi 20 anni non si sa ancora chi l'ha ammazzata. E ho seguito un po' la vicenda attraverso anche il dolore e il racconto del padre. Allora mi sono chiesto, no? Siccome ci sono molti racconti, molti film, molti cortometraggi che parlano della violenza sulle donne, ma nessuno racconta un po' quello che potrebbe essere poi il dolore o lo stato d'animo di un papà che perde una figlia. In realtà in questo film non si racconta proprio questo, ma si capisce alla fine quanto sia importante questo rapporto tra padre e figlia e quindi viene raccontato, insomma. C'è anche l'elemento onirico nel tuo lavoro. Sì, perché in realtà il racconto nasce dopo che la ragazza viene uccisa, addirittura in realtà la ragazza non sa se è viva o morta fino a quando non incontrerà un personaggio un po' ambiguo, un po' strano, che le spiegherà realmente come stanno le cose. E non mi interessava tanto raccontare la violenza sulla ragazza quanto raccontare quello, chiamiamolo così, un testamento morale che la ragazza lascerà al padre e comunicherà al padre prima di andarsene definitivamente. Rispetto alla violenza di genere, su cosa hai voluto puntare? Ho voluto puntare proprio su questo aspetto. Intanto raccontare la violenza, secondo me, ce n'è talmente tanta che raccontarla forse non so se è un bene o un male, questo non lo so, però di certo non si può non tenere accesa l'attenzione su questi fatti, no? Però non si parla mai dei genitori, cioè di quelli che poi rimangono in vita, come rimangono queste persone? E specialmente un padre, per un padre la figlia, una figlia femmina, io ho maschi e femmine, quindi una figlia femmina è diverso il rapporto che ha rispetto al figlio maschio, capisci? Quindi ovviamente questo i telegiornali non lo raccontano, questo non lo raccontano le trasmissioni che fanno in televisione e quindi ho voluto un po', ecco, soffermarmi su questo aspetto. Come mai la scelta di questo formato del mediometraggio? In realtà io volevo fare un film, ma i soldi erano pochi e quindi in un corto, entro diciamo i 15 minuti, forse non avrei espresso anche quella che è un po' la mia ambizione, cioè quella di fare un po' una regia da lungometraggio. Quindi mi sono accontentato di questo mediometraggio cercando di raccontare in mezz'ora quello che doveva essere un film da un'ora e mezza, insomma, più o meno. Che percorso farà? Questo è un film destinato ai festival, in anteprima posso dire a te che ci è arrivata proprio ieri mattina la comunicazione che è stato selezionato, accettato da uno dei più importanti festival negli Stati Uniti, in California, che è l'Alcolado Competition Film Festival, che è un festival molto importante, uno dei più importanti che c'è da 20 anni, e quindi questo ci ha dato. Anche il solo partecipare, anche il solo essere stati selezionati è una cosa che ci fa molto piacere. È un film che ha molti punti di forza, tra cui la musica, perché le musiche sono originali, scritte da Paolo Pansini, e poi c'è una canzone che noi abbiamo voluto fare proprio per il film, che è cantata tra l'altro da una grandissima voce che che è la sorella della protagonista, quindi pensa un po', tutto quasi fatto di famiglia. Però da artisti, devo dire, e anche la protagonista è una bravissima attrice. Spero che questo film le dia la possibilità di lanciarsi proprio nel mondo del cinema. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Guarda, c'è un sito che si chiama quellidel dopo.it, poi c'è l'ufficio stampa curato da Fabrizio Pacifici che comunicherà insomma tutte le varie tappe anche qui in Italia di proiezione del film o di eventuale partecipazione a festival e a rassegne. Se mi permetti vorrei solo dire una cosa, ringraziare il comune di Vitorchiano che ha ospitato in maniera eclatante, bellissima e amichevole sia tutti noi, la troupe, dandoci veramente il massimo del supporto, questo piccolo borgo medievale della provincia di Viterbo che è stato set naturale del film. Quelli del dopo, a Roma, Cinecittà Studios, Sala Fellini, giovedì 20 febbraio 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Fabrizio Borni. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Vi ringrazio di cuore, Camille.